Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona Pasqua, soprattutto anche da parte mia. State ascoltando Magazine 24, la rubrica di Radio 24 dedicata ai settimanali, la nostra rassegna stampa dei settimanali, dei periodici in genere, diciamo. Italiani e non solo, perché come spesso ci accade e come sto per fare ora, dedichiamo spazio anche a testate non di lingua italiana, a testate straniere. Beh, visto l'orario, mi pareva giusto cominciare con una notizia che riguarda il caffè a quest'ora della mattina mi pare l'ideale, e quindi sono andato a trovare su Nouvel Observateur, che è un settimanale francese, la notizia della guerra delle cialde, della guerra delle capsule per caffè. Non so quanti di voi hanno visto sul Sole 24 Ore proprio nella settimana che si è appena conclusa una notizia sulla guerra delle cialde dell'Nespresso, perché ci sono appunto degli studi, c'è un'azienda che sta cercando di produrre, di superare in qualche modo l'esclusiva di produrre cialde che sono, possono essere fruite, possono essere utilizzate su macchine di tipo diverso, non solo una sola macchina, ma su più macchine. Beh, in realtà questa guerra poi ha tutta una serie, questa guerra commerciale naturalmente, ha tutta una serie di declinazioni. Una delle declinazioni, uno dei fronti sui quali si gioca appunto questo scontro commerciale, è quello del biologico, il lato ecologico di queste capsule, e di questo appunto si occupa Nouvel Observateur, perché queste capsule hanno anche un impatto ambientale che pare non essere trascurabile. Partiamo ancora da Nespresso, che poi è stata l'innesco della notizia anche per noi in Italia, ripeto, per chi l'ha visto magari sul Sole 24 di questa settimana. Nespresso, dietro a questa capsula di Nespresso e a tutta la, naturalmente, lo sforzo produttivo e pubblicitario, riferisce Nouvel Observateur, stanno 1700 brevetti. 1700 brevetti che servono a in qualche modo tutelare l'azienda, la casa produttrice, da eventuali copie, da eventuali utilizzi appunto non ufficiali di queste macchine e di questo metodo di preparazione del caffè. Però queste capsule contengono anche poliestere, polietilene, e quindi in qualche modo sono finite, sono state criticate per questo. Un ex dirigente della stessa Nespresso avrebbe trovato, riferisce Nouvel Observateur, una sorta di falla in questo sistema di brevetti, in questa fortezza di 1700 brevetti, una falla che gli consentirebbe di commercializzare delle capsule che possono essere acquistate normalmente nei supermercati, e quindi superare tutto il sistema di marketing creato per Nespresso. E soprattutto queste capsule sono biodegradabili, il che sarebbe la grande svolta, perché lo stesso Nespresso ha cominciato a presentare in Svizzera un dispositivo per recuperare le capsule, e anche in Germania, riferisce sempre il Nouvel Observateur, c'è un contenitore, è stato presentato un contenitore appunto per il recupero di queste capsule. Quindi il prodotto nuovo, il prodotto particolarmente marchiato, particolarmente griffato, potremmo dire, che però viene aggredito commercialmente, e non solo commercialmente, anche ecologicamente, per cercare di forzare questa sorta di nicchia di mercato che pare molto ben protetta, così come spiega il Nouvel Observateur. Cambiamo completamente argomento, perché volevo segnalarvi una particolare ricorrenza degli anniversari, se mi passate il gioco di parole. Questa settimana c'è un po' un fiorire nel ricordarsi di anniversari più o meno tristi, più o meno lieti, nei vari settimanali. Ovviamente la settimana prossima ci sarà un anniversario per noi molto doloroso, è quello del 6 aprile, il terremoto all'Aquila proprio un anno fa. alla circostanza dedica una serie di pagine, una serie numerosa di pagine molto belle, peraltro Vita, il magazine del non profit. Da queste pagine traggo appunto alcune indicazioni. Al 17 marzo di quest'anno, quindi quasi a un anno, poco meno di un anno dalla scossa, dal sisma, ci sono ancora 52.612 persone assistite. Una tabella molto elaborata, riportata su Vita, ci spiega anche dove queste persone sono assistite. Ci sono varie strutture ricettive, ma anche le caserme della Guardia di Finanza, caserme dell'Esercito e poi appartamenti privati e i cosiddetti moduli abitativi provvisori. 52.000 persone assistite, e nelle varie pagine si racconta appunto la ripresa, il momento di ripresa della vita normale, insomma della vita di tutti i giorni all'Aquila. L'Aquila anno 1, così si torna a volare, è il titolo del pezzo principale di questo reportage curato da Stefano Arduini. Viaggio nei luoghi e tra le persone del terremoto a un anno dalla scossa. Il reportage appunto ha una serie di interviste anche con le persone che più si stanno impegnando, ancora a un anno di distanza, per riportare alla normalità la situazione. Sappiamo che non è facile e non sarà probabilmente neppure una cosa molto veloce. Naturalmente ci sono poi anniversari di segno un po' diverso rispetto a quello che si trova su Vita. L'anniversario del terremoto all'Aquila, ad esempio, più o meno di questi tempi, il 13 aprile del 2009 per la precisione, cominciava con il decesso del primo paziente la pandemia dell'influenza suina, o influenza A come poi l'abbiamo più comunemente chiamata. 13 aprile 2009, lo ricorda Vanity Fair, muore in Messico Maria Adela Gutierrez, 39 anni, è considerata la paziente zero, cioè il primo paziente della influenza A. In pochi giorni diventa allarme globale, il mondo si organizza, quarantena aerea, divieti di stretta di mano, bilancio finale 16.813 decessi. Ora che la paura è passata, quali effetti collaterali ha lasciato la suina? Beh, qui c'è un po' di preoccupazione per gli effetti soprattutto economici, perché questa fornitura massiccia di vaccini ha fatto sì che gli stati abbiano investito parecchio, e il giro d'affari per l'industria farmaceutica, rivela sempre Vanity Fair, è stato di circa 18 miliardi di dollari, non solo poi per i vaccini e i farmaci, ma anche il boom di detergenti e disinfettanti, alimentato poi dai consigli ovviamente di lavarsi sempre le mani, comportamento questo che forse dovremmo adottare non solo in occasioni di pandemie più o meno gravi, ma proprio anche come comportamento prudente in genere. Dello stesso aspetto, peraltro, si occupa anche il Venerdì, per chi l'avesse visto venerdì scorso, il Venerdì con Repubblica, nella rubrica di Curzio Maltese Contromano, c'è un po' di polemica sulla questione di questi grandi allarmi che spesso vengono lanciati dai mezzi di informazione e poi in realtà si rivelano meno gravi o più gestibili di quanto avevamo immaginato. Dice: dopo il flop suina, si chiede polemicamente già nel titolo maltese, quale sarà la nuova grande paura? E grande paura è scritto maiuscolo. Dice: dopo la viaria che arrivava dalla Cina, la peste suina messicana, chissà come si chiamerà la prossima bufala. Un gioco miliardario, dice Maltese, con regole fisse. E poi da lì però Maltese ironizza sia sul vantaggio che una parte di imprese possono avere da questo tipo di allarmi, ma anche sul fatto di essere così creduloni, insomma, che tra tutti noi manifestiamo qua e là. Dice: la fantasia degli stessi venditori di vaccini è d'altra parte piuttosto limitata, finora non ce n'è stato neppure bisogno, bastava lanciare l'allarme sui media e terrorizzare miliardi di persone. Forse la prossima volta toccherà farsi venire qualche idea nuova. La peste suina era partita molto bene, ma si è sgonfiata troppo presto. Rispetto alla viaria, la mucca pazza è stata un flop, un po' come capita alle serie cinematografiche giunte alla terza o quarta puntata. Manca ancora qualche mese, non tanti, perché poi il marketing dell'influenza, come i saldi di fine stagione, ogni anno viene anticipato di qualche giorno. Nel frattempo i venditori di paura potranno ingannare il tempo con l'allarme allarme caldo. Quest'estate, me lo sento, ci sarà un'ondata eccezionale di afa, ironizza Maltese, e poi naturalmente l'allarme pioggia alla vigilia dell'autunno. Ciascuna stagione ormai ha la sua apocalisse, e qui in realtà Maltese sembra più prendere a bersaglio l'abitudine dei media di caricare, di forzare i toni proprio per così creare degli allarmi, non necessariamente per una qualche strategia occulta, ma proprio per cercare di richiamare l'attenzione. Alzare un po' il volume per richiamare l'attenzione è la particolarità che viene irrisa da Curzio Maltese nella sua rubrica. A tutti gli annunci di catastrofe, conclude lui, però noi italiani reagiamo allo stesso modo, stipando le credenze di medicinali, per fortuna quasi mai assunti, lasciati scadere, dimenticati in un angolo come la paura che ne ha accompagnato l'acquisto. In fondo però è anche bello in qualche modo poter ironizzare su queste circostanze, insomma il fatto che poi gli allarmi si rivelino meno gravi di quanto si era temuto all'inizio e quindi ci sia la possibilità di sorriderne, è anche tutto sommato gradevole. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di anniversari, abbiamo detto c'è stato in qualche, siamo quasi arrivati all'anniversario, sarà il prossimo 13 aprile, del paziente zero dell'influenza suina, allarme rivelatosi poi in qualche modo eccessivo, per fortuna viene da dire. C'è un altro anniversario, lo prelevo da Vanity Fair, decisamente un po' inaspettato, non so poi neanche quanti si ricordino esattamente di questo personaggio, Laura Palmer. Perché? Perché l'8 aprile del 1990 Laura Palmer, che era un personaggio di una serie, di un telefilm che aveva avuto un notevole successo un po' di anni fa, l'8 aprile del 90 veniva trasmessa la prima puntata di questo telefilm che si chiamava Twin Peaks. L'interrogativo che si pone Vanity Fair è frivolo ma anche divertente in qualche modo, dice: ma che fine ha fatto l'attrice che per due anni ha impersonato proprio Laura Palmer? Questa attrice si chiama Sherry Lee, ha 42 anni, faceva due ruoli in questa serie, perché impersonava sia la giovane uccisa, che era poi il motivo attorno al quale ruotavano tutte le vicende appunto di Twin Peaks, sia la cugina di questa giovane uccisa, cioè la cugina Madeleine. C'è stato un libro che si è occupato di andare a cercare appunto tutte queste curiosità relative ai serial, alle saghe, alle serie di telefilm famosi, Twin Peaks è una di queste. Dove è andata a finire la Lee? Beh, la Lee non ha fatto una gran carriera come attrice, non è mai decollata, infatti riferisce dal libro Serial Mania, complice un po' di sfortuna. Nel 2004 infatti la stessa Sherry Lee l'ha stata scelta per interpretare Mary Ellis, che è la casalinga, anche qui suicida, di Desperate Housewives, di casalinghe disperate, dopo aver girato un episodio pilota, quindi Sherry Lee girò anche una sorta di prima puntata mai trasmessa di Desperate Housewives. La parte però che doveva toccare proprio a Sherry Lee andò invece a Brenda Strong, che era un'altra ex dello stesso telefilm, cioè di Twin Peaks. Poi ci furono altri tentativi, fu protagonista in una serie che peraltro non è mai arrivata in Italia, si chiamava Dottori a Los Angeles, qualche ruolo secondario in altre serie minori, e al cinema pure il film più importante è stato il film Vampiri del 1998, un film di John Carpenter. L'ultimo avvistamento di Sherry Lee, un'attrice decisamente che in qualche modo ha dovuto accontentarsi di ruoli un po' minori dopo questo grandissimo successo giovanile, questa grandissima notorietà giovanile con Laura Palmer, è stata una piccola parte in Winter's Bone, un film indipendente che però ha vinto il Sundance del 2010. Quindi Laura Palmer, dove sei? Questo è il titolo del piccolo servizio di Alessandra D'Angiò su Vanity Fair di questa settimana. Cambierei completamente argomento per parlarvi invece di una notizia curiosa che ho trovato sull'Espresso, più che curiosa, inattesa. Sapete che da molte parti si sente dire che il web ci rende più stupidi, cioè diciamo meglio, il fatto di utilizzare così tanto internet per cercare le informazioni, per rintracciare quello che ci serve, ci renderebbe un po' più superficiali. questo forse l'aggettivo più indicato. Carola Frediani però sull'Espresso di questa settimana ci informa invece che il web non è stupido. Dice: da un po' di tempo tra gli appassionati di internet si è sviluppato un dibattito sulla presunta stupidità della rete. Già nel 2008 uno studioso, Nicola Schera, aveva lanciato la provocazione chiedendosi se Google ci stesse rendendo stupidi, meglio appunto la facilità di rintracciare informazioni non ci rendesse un po' più superficiali. Più di recente un ex guru del web, Jaron Lanier, ha creato un ampio dibattito con un libro che si intitola Voi non siete un gadget, un manifesto. Questo libro è noto, penso, ai lettori del Sole 24 Ore, perché proprio su questo libro si è innescato un dibattito tra vari studiosi e anche con i navigatori del sito del Sole 24 Ore, dedicato proprio, intitolato proprio www.verità, cioè il fatto che la rete spesso sia anche foriera di un sacco di informazioni fuorvianti, quando non addirittura sbagliate o propalate ad arte, vuoi per non conoscenza delle cose, vuoi per malafede proprio di chi ci mette queste informazioni. Lanier appunto ha denunciato il rischio che oltre una certa soglia la quantità delle informazioni digitali, ce ne sono effettivamente tantissime, vada a discapito della qualità. Tutto questo è stato, ripeto, dibattuto a lungo sul Sole 24 Ore. Ai nuovi scettici del web però risponde ora un rapporto di un centro americano che studia proprio l'impatto della rete sulla società. Questo rapporto è stato curato da Pew Internet, è scritto P-E-W Internet. Secondo questo rapporto, internet rende le persone più capaci nella scrittura, nella lettura e nella comprensione della conoscenza. Quindi tutto quello, tutte le idee che ci eravamo un po' fatte sarebbero dei pregiudizi. Da qui al 2020 continua il rapporto. I cibernauti saranno in grado di fare scelte migliori sulla propria vita anche grazie alla possibilità di accedere a un volume senza precedenti di informazioni e quindi imparando a discernere in questa massa. Una ventata di ottimismo che questo centro ha intercettato intervistando 900 esperti tra manager, programmatori e ricercatori in tutto il mondo. Beh, indubbiamente la maggior quantità di informazioni ci rende sicuramente, ci mette in una posizione migliore. Qui forse si fa un po' anche di confusione tra il fatto di avere delle informazioni disponibili e quello di poi di saperle gestire, che è altra vicenda e forse ben più complessa della disponibilità pura e semplice. Una piccola novità tecnologica che trago sempre dall'Espresso, ma proprio perché è nella vicinanza di questo, di questa inchiesta di cui vi parlavo, di questa ricerca di cui vi parlavo. Biciclette solari. Ci sono delle biciclette elettriche che si ricaricano sotto delle tettoie fotovoltaiche, quindi tutta la mobilità urbana diventa a emissioni zero. Tutto questo succede a Tokyo. A Tokyo sono stati realizzati due parcheggi solari, lo riferisce l'Espresso, nei pressi delle stazioni di un quartiere di Tokyo che si chiama Setagaya. Attraverso celle ad alta efficienza l'energia solare viene usata per ricaricare le batterie delle due ruote, quindi per fare il pieno delle ricaricare le batterie e riportarle al 100% di autonomia ci vogliono circa 3 ore e mezza. L'autonomia poi della bicicletta supera i 50 km. I due parcheggi e le biciclette stesse saranno usati dall'amministrazione locale per incentivare forme di trasporto sostenibili tra i cittadini che potranno noleggiare queste biciclette. Invece chi volesse comprare questo modello di bici elettrica, per ora appunto venduto a Tokyo, deve pagare intorno ai 1.500 euro. Tutto questo in una segnalazione di Carola Frediani, ancora sull'Espresso di questa settimana. E allora, dopo tutta questa modernità, facciamo magari due passi indietro. Si sa, è noto che il libro più letto, abbiamo parlato di Google, torniamo magari alla carta. In fondo questa è una trasmissione che deve tutto alla carta e quindi ci perdonerete se siamo un pochino riverenti nei confronti appunto della carta stampata. Ma il libro più letto e tradotto nell'antichità, notoriamente è la Bibbia, non solo nell'antichità. Qual è il libro più letto e tradotto nell'antichità dopo la Bibbia, cioè escludendo la Bibbia? Questo tipo di domanda che è poi un quesito posto da un lettore, risponde storica di questo mese. Non è facile naturalmente, perché non esistendo una stampa vera e propria all'epoca, appunto nelle epoche antiche, diventa anche complicato capire qual è stato il libro più diffuso. Però secondo molti studiosi il libro più diffuso è stato Gli elementi di Euclide. Euclide in questo libro ha condensato il suo sapere matematico, e questo trattato rappresenta sostanzialmente l'opera di matematica più importante che ci è giunta dall'antichità. È suddiviso, gli elementi di Euclide sono suddivisi in 13 libri, comprende tutto lo scibile dell'epoca nel campo della geometria, è stato il testo di riferimento tra l'altro per circa 2000 anni. Ancora oggi notoriamente la geometria di base su cui tutti studiamo a scuola si fonda proprio sui teoremi, sui postulati di questo matematico greco. È interessante sapere che il libro ci è arrivato grazie prima a una ricostruzione che ne aveva fatto uno studioso di Alessandria, poi è stato tradotto in arabo a cavallo dell'anno 1000, e solo la traduzione a cura di questo scienziato e filosofo arabo che si chiamava Al-Hazen ha fatto sì che gli elementi di Euclide potessero essere poi reintrodotti in Europa attorno al 1120 con una traduzione che venne fatta in latino da Adelardo di Bath. Quindi in qualche modo avevamo perduto le nostre radici culturali, le abbiamo ritrovate grazie a questo scienziato e filosofo arabo Al-Hazen. Poi altre copie greche e arabe, derivate sempre dai vari manoscritti dell'Alessandrini, hanno consentito di ricostruire esattamente tutto il corpo dell'opera. E ancora da storica un curioso errore di trascrizione che ci accompagna oramai da migliaia di anni. Non so quanti di voi abbiano fatto algebra, quindi restiamo sempre in queste materie non semplicissime. I termini seno e coseno dell'algebra sono due nomi decisamente curiosi, soprattutto perché, come spiega storica, si riferiscono a segmenti rettilinei, non a figure concave o curve. Ma perché si chiamano così? Perché dall'arabo al medioevo hanno sbagliato a tradurre, cioè hanno letto una parola che significa corda come se fosse invece la parola che significa seno. Da lì concavità, golfo o seno, e si è passati quindi a seno e coseno, e così poi ci è toccato studiare per tutti questi anni a scuola quando abbiamo fatto algebra e trigonometria. Questa era l'ultima segnalazione di Magazine 24 per oggi. Io naturalmente vi faccio ancora i migliori auguri di una buona Pasqua. Ringrazio Valerio Rocchetti che mi ha assistito in regia questa mattina. Grazie anche a Vittoria Mussini, Margherita Aina che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che potete riascoltare tutta questa puntata di Magazine 24 e anche tutti i programmi di Radio 24 sul nostro sito all'indirizzo www.radio24.it. Grazie e a risentirci sabato prossimo.